Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Anima Jazz numero 678. Devo subito scusarmi per la voce è influenzata, una voce che è condizionata da raffreddore, tosse, tutta una serie di frutti dell'influenza stagionale che mi ha colpito prestissimo. Stasera in questa puntata abbiamo un sacco di novità discografiche molto interessanti, alcune dall'Italia, altre anche dall'estero, per cui ci sarà una bella varietà di ascolti e anche di linguaggi all'interno del jazz. Iniziamo subito con un validissimo pianista italiano, si tratta di Michele Di Toro, che per la A Beat for Jazz ha pubblicato un CD in piano solo intitolato Flying, dal quale noi ci potremo ascoltare una sua composizione originale intitolata Impro 2. Buon ascolto con Michele Di Toro. Bene, questa era la musica di Michele Di Toro, un pianista che ho avuto anche il piacere di ascoltare dal vivo e di conoscere al Barga Jazz Festival qualche anno fa. In questo caso lo ritroviamo dal leader per questo suo bel nuovo progetto intitolato Flying per piano solo, realizzato dalla Ebit for Jazz, e noi ci siamo ascoltati questa sua composizione originale intitolata Impro 2. Tutto il CD è improntato su un pianismo particolare, intimista, mi verrebbe da dire, con delle atmosfere sospese, con un approccio molto poetico, molto intenso, molto interiore, che mettono in evidenza la grande sensibilità di questo ottimo pianista e compositore. Michele Di Toro, dal CD Flying. Ed ora proseguiamo con un vibrafonista, Mirko Pedrotti. Mirko Pedrotti che ha realizzato per la Stivo Records un bel CD intitolato MPQ, Mirko Pedrotti Quintet. In questo progetto discografico Mirko Pedrotti al vibrafono è supportato da Lorenzo Sighel al sax alto, Luca Holzer al piano rozze e ai sintetizzatori, Michele Bazzanella al contrabbasso, Matteo Giordani alla batteria, e poi c'è uno special guest d'eccezione che è Gianluca Petrella al trombone e ai sintetizzatori. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è una composizione originale di Mirko Pedrotti che si intitola Hippies, quindi buon ascolto con il Mirko Pedrotti Quintet, special guest Gianluca Petrella. Thank you. Ci siamo ascoltati Mirko Pedrotti Quintet, un gruppo veramente molto interessante, bella musica, la musica originale di Mirko Pedrotti, che non solo è un ottimo musicista ma anche un validissimo compositore. In questo CD MPQ, cioè Mirko Pedrotti Quintet, l'artista vive veramente un percorso molto interessante ed equilibrato tra il grande rispetto per la meravigliosa tradizione del jazz, ma nello stesso tempo anche una vivace presenza del jazz contemporaneo, un'essenza che si avverte in ogni passaggio. Quindi un bel equilibrio tra la grande tradizione e le istanze del contemporaneo in questo bel CD dal quale noi ci siamo ascoltati Hippies, un pezzo nel quale ogni musicista riesce a far emergere le proprie qualità tecniche, la propria capacità creativa, fantasiosa, attraverso assoli veramente molto godibili. Un CD veramente gradevole, dal primo all'ultimo pezzo, che consiglio sicuramente. Mirko Pedrotti Quintet, il CD è MPQ, pubblicato dalla Stivo Records. E adesso andiamo avanti con Raffaele Vasquez. Raffaele Vasquez ha realizzato per la Working Label un nuovo CD intitolato Me, dal quale noi ci potremo ascoltare Gelosia. Buon ascolto quindi con il cantautore Raffaele Vasquez. No, non c'è spazio per te nella rabbia che ho. Se noia tu vuoi, tu le dita di blu, perché le tu? Non questa sera, non so se sarò lì con te. E come panna su un cono, d'estate in estate, così fai tu. Gelosia nell'inverno della tua anima, e gelosia nel freddo della tua ironia, e gelosia nell'inferno della tua follia, e gelosia della brina che si accomoda. Dormirai con le mie scarpe appese al comò, per sentire l'odore più basso che mai ti darò. E gelosia nell'inverno della tua anima, e gelosia nel freddo della tua ironia, nell'inferno della tua follia, e gelosia della brina che si accomoda. Nella nebbia che hai portato tu, non c'è, non c'è la vita. Bene, questo era il particolare timbro del cantautore Raffaele Vasquez, che ha realizzato per la Working Label questo CD intitolato Me. dal quale ci siamo ascoltati Gelosia, questa sua composizione originale. Raffaele Vasquez è un cantautore tra i più interessanti dell'ultima generazione che si sta mettendo in buona vista attraverso la partecipazione a manifestazioni e concorsi riservati alla musica cantautoriale ed è uno di quei cantautori che non disdegna anche di profumare le sue composizioni con ambientazioni jazz. Non sempre, però sicuramente qualche pezzo è immerso in queste atmosfere e questo giustifica chiaramente la proposta anche nel mio programma. Un timbro particolare, profondo, intenso, che riesce sempre a coinvolgere, e Raffaele Vasquez è sicuramente uno dei cantautori da tenere d'occhio in questo periodo. Alcune informazioni su questo progetto discografico: Raffaele Vasquez in me, in questo disco, è alla voce chiaramente con Mauro Tre al pianoforte, e hanno collaborato anche a questo disco i batteristi Alessio Borgia e Paolo Provenzano, e poi il bassista Luca Alemanno, il chitarrista Luigi Bruno e il violinista Francesco Del Prete. Adesso andiamoci ad ascoltare un ottimo contrabbassista e compositore italo-americano che si chiama Joseph Lepore, molto bravo, che nel 2010 realizzò questo CD intitolato Journal, che riuscì a mettere in evidenza questo ottimo musicista anche a livello internazionale. Io non conoscevo questo progetto discografico. Joseph Lepore molto gentilmente, visto che l'avevo promosso per altre cose più contemporanee, mi ha voluto omaggiare di questo suo disco, e vi voglio presentare Running, una sua composizione originale. Buon ascolto. Questa era la musica del contrabbassista e compositore Joseph Lepore, che ci ha fatto ascoltare questo suo pezzo intitolato Running, tratto dal CD Journal pubblicato nel 2010. Un CD che ho ascoltato, come dicevo prima, non conoscendolo, conoscendo soltanto le ultime pubblicazioni che avevo proposto di Joseph Lepore, e quindi ho ricevuto con grande piacere anche questo pezzo, che comunque è sempre recente perché è di pochissimi anni fa, e che raccoglie delle composizioni molto bene eseguite e ricche di belle tensioni. Il gruppo era formato da Joseph Lepore al contrabbasso, e come dicevo prima anche alle composizioni, Lance Murphy al sax tenore, Tim Collins al vibrafono, Nashit Waits alla batteria, e fu pubblicato dalla Inner Circle, Inner Circle che era un'etichetta fondata da Greg Osby, musicista di fama internazionale, con il quale lo stesso Joseph Lepore ha suonato dal 2008 al 2012, quindi una particolarità interessante. Il pezzo è ricco di belle energie, di belle tensioni, gradevolissimo, con delle belle performance personali, ottimi fraseggi, e quindi sicuramente godibile dal primo all'ultimo pezzo. Dopo Joseph Lepore è il momento di una straordinaria cantante, una delle più brave e più prestigiose cantanti jazz del mondo, Dee Bridgewater, che da poco ha realizzato un CD intitolato Dee's Features, e l'ha fatto insieme a Irving Mayfield e alla New Orleans Jazz Orchestra. Il pezzo che ci andremo ad ascoltare stasera è intitolato Come Sunday. Buon ascolto quindi con Dee Bridgewater. God Almighty, God of love, please look now and see my people through. Lord, dear Lord above, God Almighty God of love, please look down and see my people through. Clouds passing by. Up from dawn till sunset, work out all the day. Come Sunday, come Sunday, that's the day. Thank you. up in the sky. I don't mind the great skies, 'cause they're just clouds passing by. Up from dawn till sunset, people work hard all the day. Sunday, whoa, but Sunday, that's the day. The day. Oh, come Sunday. La grandissima Didi Bridgewater, una cantante che non tradisce mai le aspettative, sempre capace di offrire il meglio con grande eleganza, grande raffinatezza, grande capacità tecnica, una capacità tecnica che però non viene mai fatta pesare più di tanto, perché non è una cantante che si basa sulle facili performance strappa applausi, è sempre molto equilibrata, naturale, pur offrendo tutte le volte delle performance di altissimo livello. Bene, noi ci siamo ascoltati Come Sunday, tratta da questo CD intitolato Didi's Features, un CD uscito da poco e che vede Didi Bridgewater impegnata insieme ad Irving Mayfield and the New Orleans Jazz Orchestra, che ha vissuto con una bella performance sanguigna e sensuale l'interpretazione canora della grande Didi Bridgewater. E adesso ritorniamo in Italia, ci ritorniamo per ascoltare il gruppo di Ajar, che ha realizzato per la 12 Lune Records un CD che porta proprio il nome del gruppo. Il gruppo è capeggiato da Luigi Esposito, pianista di valore, anche valido compositore, e Umberto Lepore al contrabbasso, Marco Castaldo alla batteria, Charles Ferris alla tromba e al flicorno, Davide Maria Viola al violoncello. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è una composizione originale di Luigi Esposito intitolata Prima e Dopo. Buon ascolto quindi con il gruppo di Ajar. Thank you. E ci siamo ascoltati la musica del gruppo di Ajar, la musica in questo caso composta da Luigi Esposito, leader di questo gruppo, al pianoforte, insieme a lui Umberto Lepore al contrabbasso, Marco Castaldo alla batteria, Charles Ferris alla tromba e flicorno, Davide Maria Viola al violoncello. Il CD è intitolato proprio con il nome del gruppo, Ajar, pubblicato dalla 12 Lune Records, e noi ci siamo ascoltati prima e dopo questa composizione originale di Luigi Esposito, molto come dire, discreta, morbida, poetica, sicuramente elegante, raffinata, che mette in evidenza la grande sensibilità musicale di Luigi Esposito e la complicità che tutta la band vive con grande naturalezza sulle ambientazioni musicali create appunto da Esposito. Un bel CD con una morbidezza espressiva veramente gradevolissima. Dopo il gruppo di Ajar è il momento di ascoltare Daniel Fortin. Daniel Fortin è un contrabbassista e compositore che ha realizzato da poco un CD intitolato Brinks. L'ha fatto insieme a David French al sax tenore, Michael Davidson al vibrafono e Fabio Ragnelli alla batteria. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è impronunciabile perché, a parte la prima lettera del titolo che è una vocale, il resto sono tutte consonanti, per cui impossibile da... Ci provo comunque. Edel D.M. Biddle D. Quindi è un nome veramente difficile da pronunciare. Comunque è scritto così, è la composizione di Daniel Fortin che vi faccio ascoltare. Buon ascolto. bene, questa era la musica di Daniel Fortin. Daniel Fortin che dal CD Brinks, l'ultima sua fatica discografica, ci ha fatto ascoltare questa sua composizione originale che, come dicevo prima, è impronunciabile proprio perché è stata scritta soltanto con delle consonanti, per cui solo la prima lettera è una vocale, poi il resto è impossibile da pronunciare. E comunque facendo uno spelling di questa parola, ADL, DM, BDLD. Il gruppo è formato da David French al sax tenore, Michael Davidson al vibrafono, Daniel Fortin al basso e alle composizioni, Fabio Ragnelli alla batteria. Come avete sentito, un pezzo di una certa forza, di una certa carica espressiva, con una sezione ritmica molto forte, molto presente, ingentilito il tutto da questa sezione del vibrafono di Michael Davidson, che in sottofondo addolcisce le sonorità create in questo pezzo. Adesso andiamo avanti con il gruppo di Juju Sounds, il gruppo capeggiato dalla contrabbassista e compositrice Silvia Bolognesi, una delle contrabbassiste più interessanti e più prestigiose del jazz italiano. E in questo periodo ha realizzato proprio questo suo nuovo progetto discografico con questo gruppo Juju Sounds, intitolato Protection Sounds. L'ha fatto attraverso la sua etichetta, La Fonte Rossa. Insieme a lei in questo progetto abbiamo Paolo Botti al banjo e viola, la stessa Silvio Bolognesi chiaramente al contrabbasso, Achille Succi al sax alto e clarinetto basso, Andrea Melani alla batteria, e poi in un pezzo che sarebbe proprio Juju Sounds abbiamo Griffin Rodriguez alla voce. Ma il pezzo che vi voglio proporre stasera è intitolato Jinx, una composizione originale di Silvia Bolognesi. Buon ascolto. Questo era Jinx, una composizione originale di Silvia Bolognesi tratta dal suo ultimo CD intitolato Protection Sounds, vissuto insieme al gruppo di Juju Sounds, gruppo con Achille Succi al sax alto e clarinetto basso, Paolo Botti al banjo e alla viola, Andrea Melani alla batteria, Silvia Bolognesi chiaramente al contrabbasso. Un pezzo, questo Jinx, che evidenzia intanto l'utilizzo molto contemporaneo del banjo, che noi siamo abituati per convenzione a sentirlo impegnato soprattutto nel jazz tradizionale degli anni 20-30 e non certo in chiave contemporanea. Ma tutto il pezzo è molto particolare, stimolante, interessante, in chiave di quella ricerca, di quella sperimentazione che ha sempre caratterizzato l'attività di Silvia Bolognesi, che fin dai primi tempi si è messa in evidenza proprio per questa sua volontà di ricerca e di sperimentazione, di vivere l'avventura artistica sempre con il piacere della scoperta e della rimessa in gioco. Insieme a lei musicisti molto importanti che condividono questi moventi, che sono sempre molto coinvolgenti proprio per la condivisione intellettuale e per la grande professionalità che i musicisti esprimono nel viverla. Dopo la bravissima Silvia Bolognesi e il gruppo di Juju Sounds, chiudiamo la serata con Sam Most and the Italian Friends. Il gruppo è formato da Sam Most al flauto, insieme a lui Stefano Benini, flauto e didgeridoo, Matteo Sabatini al sax alto, Andrea Tarozzi al pianoforte ed Enrico Terragnoli al basso. Stasera dal CD che vi ho appena enunciato, cioè Sam Most and the Italian Friends, ci potremo ascoltare Falling in Love with Love. Buon ascolto. Thank you. questa era la musica di Sam Most. Sam Most, veramente un valido flautista, ma anche un interessante compositore. Gradevolissimo questo pezzo che ci siamo ascoltati, che era una sua composizione originale intitolata Falling in Love with Love, tratto dal CD Sam Most and the Italian Friends, un CD veramente gradevole dal primo all'ultimo pezzo, delicatissimo, con grandi performance personali. E il gruppo è formato da Sam Most al flauto, Stefano Benini al flauto e al didgeridoo, Matteo Sabatini al sax alto, Andrea Tarozzi al pianoforte ed Enrico Terragnoli al basso. Il CD è stato pubblicato dalla Azzurra Music, e con questo bel pezzo e questa bella musica di Sam Most and the Italian Friends si conclude anche la puntata 678 di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.